Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ben ritrovate a tutte e tutti da Debs e Frey. Ben ritrovate con la nuova stagione di Van Loon, il programma di storia contemporanea a cura del Caso S. Anche quest'anno, per l'anno 2017-2018, ripartiamo con tutta la redazione al completo per tenervi compagnia il sabato pomeriggio con storie, partendo da vari spunti, film, canzoni, bibliografie e letteratura specializzata e le iniziative che ci sono in giro a Bologna. Quest'anno vi terremo compagnia sempre il sabato pomeriggio, non più alle 13 ma alle 14, quindi mi raccomando appuntatevelo. E inauguriamo la stagione 2017-2018 con una puntata della rubrica You Say Want a Revolution, ovvero la rubrica che dedichiamo a quelle tematiche un po' rivoluzionarie, proprio perché quest'anno 2017 è l'anno, insomma, di anniversari rossi. Di cosa parliamo quindi in questa puntata e da cosa partiamo soprattutto per parlare di storia? Allora, oggi parliamo del rivoluzionario per eccellenza, colui che è diventato simbolo internazionale della rivoluzione e del sacrificio totale della propria esistenza in nome di una causa. Stiamo parlando naturalmente di Ernesto Che Guevara. Il Che, nell'immaginario comune, è diventato un simbolo su una maglietta, un eroe laico da venerare, con l'inevitabile svuotamento di quello che è stata la sua incredibile storia. Per parlarvi del Che, oggi partiamo dai fumetti e ci muoviamo così tra disegni, Sud America e rivoluzione, per andare oltre quella faccia da maglietta. Per la gloria, viaggi organizzati, vanno a Cuba, per Prago, per Varsavia. Ma com'è finito il Che su tutte quelle magliette? Ecco, a questa domanda risponde molto bene l'inizio del fumetto Che viva il Che Guevara di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, edito dalla Becco Giallo nel 2011. La foto è stata scattata dal fotografo cubano Alberto Corda ai funerali delle vittime della strage della Cubre, una delle prime azioni degli anticastristi nel 1960. Il fumetto inizia proprio quando il fotografo consegna la foto a Gian Giacomo Feltrinelli, che editerà più tardi Diario di Bolivia. Questo fumetto ha proprio il pregio di ripercorrere in maniera originale quel passaggio della nascita del mito che in altri fumetti è trascurata, in favore del racconto della vita di Che Guevara e della sua morte. Di tono decisamente più didascalico è invece C'è, del fumettista underground statunitense Spain Rodriguez, pubblicata proprio in questo 2017 in Italia dai Naudi. C'è, di Rodriguez, è esattamente l'esempio di una storia apologetica in cui spesso si incappa quando si parla di Guevara. Vignette con scarso movimento, dalle lunghe e verbose didascalie in cui si celebra la storia del guerrigliero argentino. Giusto per darvi un'idea del tono retorico di questo libro, l'ultima tavola vede un Fidel soddisfatto che poggia la sua mano sulla spalla di Chavez, confidandogli che in fondo anche la democrazia e le elezioni non sono poi così male. 1958, Batista est renversé. Ça fait 7 ans que la révolution cubaine a commencé. La révolution humaine qu'on a pensée s'y développe. Homme nouveau, sans aliénation, les fesses entre deux blocs. Animé par mes idéaux, nerf de la guérilla. Fidèle à la patrie, donc en tête par la CIA. J'ai traversé les maquis où tant de compagnons sont tombés. Instinct de sacrifice quand seul le sang est le prix de la liberté. Pas de frontières dans cette lutte à vie. C'est celle de tous les opprimés, de l'impérialisme et de sa tyrannie. Mon socialisme n'est pas russe, il n'est que transition vers un modèle où les peuples n'auraient plus besoin de dirigeants. À cette époque, l'Afrique est un chantier. Continent frère, moi je rêve d'y aller depuis que j'ai quitté l'Argentine. Je m'en vais donc à la rencontre de l'incorruptible du Congo. Patrice Lumumba contre les Belges et leur complot. Surnommé Patrice, adorateur de ma patrie, le Congo belge, représentant les indigènes qui sont partis. Je lutte contre la corruption des ex-colonisateurs qui veulent nous imposer une politique d'amateurs. Ils veulent qu'on se bouffe entre nous comme des Maasai, piller toutes les richesses provenant du Kassai. Triste quand la haine prend forme humaine et se déchaîne, quand un peuple est libre mais lié par des chaînes. J'ai l'espoir que mon combat va porter ses fruits, car l'impérialisme de l'Occident est un ouragan qui nous détruit. Mon continent est à la traîne, donc ça me fait de la peine. Alors je m'inspire de la révolution sud-américaine. Des vaillants soldats prêts à mourir pour leurs idées. Ni peut arrêter un homme forcément décidé. Assigné dans un trou à ras, la force me revient en entendant l'écho de la voix du Che Guevara. Arrivé au Chabat, des militaires au plein le hall. Le camarade Lumumba m'attend devant l'aéroport. Voiture camouflée, ici l'ambiance est corrosive. Encore un pays exploité par son ancienne colonie. Un regard vers la piste d'atterrissage, un avion vient d'atterrir. Tout est suspect, méfiance qu'avec le danger acquis. Babylone piétine facilement des combattants désunis. Patrice et Ernesto réunis, le cauchemar des États-Unis. Venu prêter main forte aux terres d'Afrique, salutations sincères de la part de tous les pays révolutionnaires. Bienvenue camarade, et merci de ton soutien. L'honneur est pour moi de venir combattre parmi les tiens. Et si les ravages de la division sont visibles à l'œil nu, les tribus s'entretuent, nos leaders se sont tués. Tu sais, quelques hommes suffisent à renverser un pays. S'ils sont unis et dévoués, même l'impossible peut prendre vie. Déjà formé, une avant-garde au service de la cause, conscient des objectifs en tout, combien d'hommes tu disposes? Une petite centaine, prête à marcher vers Kinshasa. C'est la conviction, la détermination qui compte ou vice-versa. Tu sais que le courage est une arme, et si la guerre était un arbre, la volonté serait les racines de cette arme. Aussi vrai que la liberté est synonyme d'autonomie, alors soyons ensemble pour combattre toute forme de colonie. Contre l'impérialisme des puissants capitalistes d'Occident, pour libérer nos peuples. Le poing levé avec comme arme de combat un stylo, une feuille et un cœur qui bat. Des sans-voix aux Congolais, Congolaises et combattants de l'indépendance. Contre l'impérialisme des puissants capitalistes d'Occident, pour libérer nos peuples. Le poing levé avec comme arme de combat un stylo, une feuille et un qui parle. Camarades, soyons réalistes, exigeons l'impossible pour libérer nos peurs. Porte-voix, descends voix au peuple du monde, combattant de l'indépendance. Quelli che sono i due autentici capolavori nel campo delle biografie di Guevara a fumetti. C'è di Hector Osterhead e disegnato da Alberto Breccia insieme al figlio Enrique e l'uomo che uccise Che Guevara di Magnus. Partiamo da C'è, il libro realizzato da questo terzetto di maestri del fumetto argentino. Forse avremmo dovuto parlare di quest'opera all'inizio della puntata, essendo il fumetto più vecchio fra quelli che abbiamo presentato, visto che la data di pubblicazione è il 1968, ovvero a un solo anno di distanza dalla morte del guerrigliero eroico. La sua storia editoriale, però, ne fa un fumetto che il pubblico italiano ha conosciuto solo in anni recenti, essendo stato diffuso per il grande pubblico solo nel 2007 dalla Rizzoli. Come mai questo lungo lasso temporale per un fumetto che all'epoca in Argentina andò a ruba? È forse noto ad alcuni che Hector Osterhead, uno dei più famosi sceneggiatori argentini che collaborò anche con un giovanissimo Hugo Pratt, fu uno dei tanti desaparecidos argentini in nome delle sue simpatie peroniste. Meno nota è però la sorte delle sue opere. Firmati da un autore sovversivo, i suoi fumetti furono presto tolti dalla circolazione, comprese copie e tavole, cioè in primis naturalmente. Noi abbiamo avuto modo di conoscere questa bella biografia di Guevara grazie ai volumi che Breccia sotterrò nel giardino di casa sua in attesa di tempi migliori. C è un'opera che riesce a rendere il valore politico umano della vita di Guevara. Sfogliando le due parti in cui il libro è diviso, una illustrata da Breccia padre dedicata alla ricostruzione biografica e l'altra affidata al figlio Enrique, in cui si illustra il diario di Bolivia, possiamo percepire tanto il fascino esercitato dalla figura del C, quanto gli interrogativi sul senso della sua avventura che emergevano nei suoi contemporanei. Alberto Breccia, per raccontarci la vita del Che, impiega un bianco e nero pulito dal tratto netto, che sembra quasi voler offrire uno sguardo preciso e imparziale. Questa storia però viene intervallata da estratti del diario di Bolivia, in cui il dolore, la fatica, la frustrazione di quest'ultima lotta di Guevara vengono messe a nudo dall'impressionismo cupo, fatto di un bianco e nero questa volta esplosivo e di forti contrasti di Enrique, capace di coinvolgere il lettore in quella che forse è la parte principale del fumetto. C'è è forse la miglior lettura che si può fare per comprendere veramente la storia di Guevara. Interessante notare che, a differenza delle scelte fatte dalla cinematografia o dalla musica, che hanno preferito raccontare la dimensione avventurosa della sua vita, quella per intenderci dei viaggi a bordo della Poderosa, nei fumetti è invece la tragedia boliviana ad attrarre l'interesse degli autori. Thank you. come anticipato, de L'uomo che uccise Che Guevara di Magnus, che in una sola storia sintetizza l'atmosfera cruenta che ha regnato in Bolivia negli anni delle dittature, i traffici di droga e il ricordo della sorte di Guevara e della sua avventura fra la popolazione boliviana. Il personaggio principale è El Lugubre, un addetto alla lavorazione di un carico di cocaina che deve essere spedito negli Stati Uniti. Seguendo la sua storia ci imbattiamo nel dramma degli indios boliviani, poi ci sono le storie di minatori che avevano scioperato in sostegno alla guerriglia di Guevara e si scoprono così le orribili repressioni condotte dai militari nei confronti della popolazione. Sfogliando le pagine scopriamo chi è Lugubre e come vuole chiudere la sua storia che si è intrecciata con la fine di Guevara. Anche nel libro di Magnus trova spazio il diario di Bolivia, di cui Magnus illustra alcuni passaggi. Cambia lo stile grafico della pagina, passando dallo stile particolareggiato per cui conosciamo Magnus, fatto di un tratto scuro e denso, ad un segno più leggero, che lascia soltanto intuire le figure, come se si trattassero di ricordi, persino il tempo, di quell'avventura tragica. Se poco ci aiuta a comprendere e a conoscere la sua storia, L'uomo che uccise Che Guevara, fra i libri che abbiamo citato, è sicuramente quello più evocativo, più capace di raccontare la storia di Ernesto Che Guevara e la diffusione del suo mito. Questi sono i nostri consigli di lettura. Ci sono naturalmente tanti altri fumetti che non siamo stati in grado di leggere perché si possono reperire soltanto sul mercato francese. Fra le nostre ricerche su internet però abbiamo trovato una chicca sicuramente gustosa che vi invitiamo a scoprire assieme a noi. Eden Hotel, Tom Hong, Ernesto di Diego e Agrimbo e Gabriel Politi. Edito da Casterman nel 2012, in cui il nostro Ernesto Che Guevara, proprio in nome del suo grande mito, ancora giovanissimo inizia a combattere niente meno che contro i nazisti. Fra le tante cose che si possono attribuire a Guevara, quella di combattere i nazisti forse è decisamente eccessiva. Rivendico assolutamente il diritto al vagabondeo, all'avventura, all'utopia e al romanticismo, perché questa è l'essenza del Che. Partito alla grande con Alberto e con la moto, siamo venuti tutti quanti a salutarvi, con un augurio, un abbraccio, una risata, una bottiglia, le ragazze una lacrima ed un bacio. Nel bagaglio avevate due coperte, un po' di mate, una chiave del 10 e fin di ferro, una mappa, qualche libro, un paio di indirizzi, per manos, paese e confioso. Nonostante le cadute e le rotture del motore, avete attraversato il continente, scroccato da mangiare, sofferto freddo e fame, abbandonato la moto in rottami. Hai parlato con gli indios rassegnati e impassibili, coi minero stai polmoni avvelenati, coi lebbrosi sepolti in ospedali giù all'inferno e li hai portati nel ricordo con te. Resta allegra come sei, dalle piste di Temuco, alle vette di Abancai. Tieni gli occhi sempre aperti, custodisci l'ultima idea, noi ci prepariamo a seguirti. Diventato grande, comandante vittorioso e poi ministro, e hai sfidato dittatori e per anni li hai beffati, e che adesso tutto il mondo ti conosce, ma non piace ripensare alla tua voglia di partire, alla moto caricata all'impossibile, agli scherzi di Alberto e alla sete di avventure, è un bel modo per dire libertà. Capolinea so che non ritornerai, ma che brada dello Iuro ti aspettavano i macellai, ti hanno mostrato i giornalisti, hanno detto ecco lui, regna all'ombra su un paglia grande. Addio, dormi tranquillo perché non finisce qui, l'avventura è ripartita, resta intatta l'ultima idea, e da qualche parte del mondo c'è qualcuno come te che prepara un nuovo viaggio. Transamerica. Bene, concludiamo anche questa puntata e vi diamo appuntamento al prossimo sabato, ma prima vi vogliamo ricordare alcuni appuntamenti interessanti, fra cui il Festival 900 Fest, Festival di Storia del Novecento, intitolato quest'anno Libertà e Uguaglianza, che si terrà a Forlì dal 4 al 7 ottobre, proprio dedicato al tema della Rivoluzione Russa e il Novecento. Inoltre, proprio a Bologna, invece, si terrà dal 7 al 9 ottobre una programmazione specifica su Che Guevara, chiamata appunto Che Guevara 50 anni dopo. Ci sarà come ospite d'eccezione Gianni Minà e poi tantissime proiezioni a riguardo. Buon pomeriggio quindi a tutte e a tutti e ci sentiamo il prossimo sabato. Ciao! Ciao! Popolo può liberare se stesso dalle sue gabbie d'animali elettrodomestici, ma l'avanguardia d'America dobbiamo fare dei sacrifici verso il cammino lento della piena libertà. Se rivoluzionario non trova altro riposo che la morte, che rinuncia al riposo e sopravviva, niente o nessuno lo trattenga, anche per il momento d'un bacio o per qualche calore di pelle o prebenda. Problemi di coscienza interessano tanto quanto la piena perfezione di un risultato. Lottiamo contro la miseria, ma allo stesso tempo contro la sopraffazione. Lasciate che lo dica. Rivoluzionario quando è vero è guidato da un grande sentimento d'amore, ha dei figli che non riescono a chiamarlo, mogli che fan parte di quel sacrificio, suoi amici sono i compañeros de revolución. Non lo cerco, ma è già tutto nel mio calcolo. Addio Fidel, oggi è l'atto conclusivo. Sotto il mio cielo, nella gran patria di Bolivar, la luna di Geras e la luna de Playa Girón. Sono un rivoluzionario cubano, sono un rivoluzionario d'America. Signor colonnello, sono Ernesto del Che Guevara. Mi spari, tanto sarà utile da morto come da vivo.